Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, oggi prevediamo di parlarvi di rimozioni, di mani in alto e di cosa bisogna fare per mangiare del buon cioccolato.